Tra le righe. Letture, incontri e divagazioni con Adelaide Spallino. Buonasera, grazie a questa amministrazione che ci ha permesso di aprire le manifestazioni per l'estate vivonese con questo incontro a cui noi tenevamo molto. Stasera presentiamo l'ultimo libro della nostra ospite. È un libro dove la parola seduce nel suo essere nuda e cruda, è una parola schietta, carnale, che partorisce una forma di scrittura vivida che non prevarica sulla narrazione, anzi la segue e la sostiene, si modella con essa e senza esercizio di stile alcuno, per far sì che il lettore possa cogliere tutte le più piccole sfumature della storia che gli passa sotto gli occhi. Grazie a questo uso delle parole si entra nella dimensione della bellezza del racconto puro, il racconto pieno e scevro da orpelli di ogni sorta, quello che offre la storia pura a chi ascolta o chi legge. Giuseppina Torregrossa riesce a disegnare in quest'ultimo libro ancora una volta una figura femminile grandiosa nella sua quotidianità, non un'eroina di romanzo d'appendice, ma una donna che si confronta con gli altri e con il mondo che la circonda in maniera ancestrale. Ed è forse per questo che Romilda, questo il suo nome, quello apparente, vive in perfetta armonia sia con la natura, sia con le persone e riesce a sedurre con la sua sola presenza chiunque. Per meglio introdurre la nostra scrittrice ed iniziare così questo viaggio all'interno di Manna e Miele, Ferro e Fuoco, le chiedo com'è stato passare dalla cura del corpo femminile al racconto dello stesso, dal sondare la fisicità di questo corpo a scandagliare i suoi stati d'animo, quali limiti, se vi sono stati, e quali privilegi l'hanno accompagnata nel passare da medico delle donne a narratrice delle stesse. Giuseppina Torregrossa. Grazie. Grazie a tutti voi per essere qui. Permettetemi prima di rispondere di ringraziare l'amministrazione che ha sostenuto questa manifestazione e soprattutto di ringraziare questi magnifici librai che sono degli eroi moderni, no? In un momento in cui Italia la cultura pesano quotidianamente non solo sulle estati ma proprio sulla vita di tutti noi, pensare di tenere in piedi una libreria è un atto di grande coraggio, è come aprire una birreria in Africa, tutto sommato, no? Nel deserto. Quindi grazie davvero ad Adelaide, grazie a Dario, grazie a tutti voi per essere qui. Per quanto attiene a questo mio, così, non so se duplicità o schizofrenia, da una parte la medicina e dall'altra la parola, la scrittura, io devo dire che il mio mestiere di medico e anche gli studi che ho fatto sono stati essenziali nel poter descrivere, nel poter scrivere alcune cose. Il corpo, io non credo a una dualità fra anima e corpo, credo al corpo e poi la moderna scienza con queste, con la PET, con tutti i neurotrasmettitori, con la scoperta delle endorfine, dei neuromodulatori, in qualche modo ci dà ragione persino dell'amore, no? E persino del non più solamente della rabbia, che si poteva pensare che fosse la pressione alta, no? Ma persino la passione diventa una manifestazione biochimica. Io credo molto al corpo e credo molto ai suoi linguaggi, e credo che la parte più è quello che ci permette, se solo lo ascoltassimo, riusciremmo a vivere un pochino più felice. Come medico ho avuto il privilegio di incontrare un sacchissimo di donne. Ecco, se parliamo di privilegi, il privilegio è quello di riuscire a entrare nella vita delle donne. Le donne si raccontano, per fortuna, hanno una facilità a descriverti e a lasciarti entrare nel mondo delle loro emozioni, nelle loro passioni, nelle loro sofferenze. Questo mi ha permesso di poter sezionare quasi in certi momenti. Dicono che sono un poco pillicusa nelle descrizioni. E io ci credo a questi. Penso che sia utile conoscere nel dettaglio tutte queste manifestazioni. La mia professione è stato più un aiuto che un limite nella scrittura. Certo, forse chi è un lettore. Il limite può essere rappresentato dalla fatica. Io non sono una di mestiere, ho sempre scritto, ma il mio mestiere era un altro. Quindi qualche volta il limite è rappresentato dalla fatica fisica e dall'insicurezza, perché il non avere una tecnica ti rende un po' insicura, no? Poi però ci sono i lettori che arrivano, che ti scrivono, e questo poi ti rassicura sul buon utilizzo che fai della tua arte. Ascoltiamo un brano tratto dal libro. Alfonso, tra i suoi muggii, dimenticò l'ostilità della donna. Roba da donne le passerà, si disse, e al bosco abbandonò ogni altra preoccupazione. Il mestiere l'aveva imparato da suo padre e lui dal suo. E così, andando indietro, fino a quel nanno arabo dalle mani nere e gli occhi di diavolo, che arrivò per mare, e scappando non si sa da chi, si nascose nella macchia dell'inferno, un roveto fitto, dove nessuno osava avventurarsi per paura di perdersi. Persino i cacciatori giravano al largo da quella zona. Se un cane fosse entrato lì dentro, non sarebbe mai più tornato indietro. Poi non si sa come né perché, il nanno fece la traversata. Forse si era stancato di togliersi spine e schegge dalle mani e dai piedi, o magari aveva voglia di cuocere ancora un po' la sua pelle scura ai raggi del sole. O l'umidità del sottobosco gli faceva dolere le ossa. Certo è che lasciò Piano Sempria e raggiunse Castelbuono. Probabilmente visse al Palazzo dei Ventimiglia o trovò rifugio in una delle tante botteghe di artigiani. O forse era un mercenario, ma questa era un'ipotesi che Alfonso non amava prendere in considerazione. Il nanno era uno inquieto. Forse resistette al castello due primavere. Poi si rimise in cammino e raggiunse Gangi, dove sposò la figlia di un pastore e lì consumò il resto della sua esistenza. Razza fiera, quella dei Gelardi, che del suo antenato arabo andava particolarmente orgogliosa. Era stato lui a piantare i muggii a Contrada Malia. Gli arabi sono fatti così. Dove arrivano, lasciano il segno. Da quel frassineto Alfonso estraeva manna di finissima qualità. Gli alberi erano le sue creature. Di ognuno conosceva rami, foglie, recessi, anfratti, debolezze, difetti. La produzione vera e propria iniziava alla fine di luglio, ma già nel mese di marzo lui era lì a preparare il terreno. Per tutto il periodo della manna si accampava nel bosco. La raccolta è cosa delicata. E una pioggia improvvisa o una notte di umidità possono vanificare settimane di paziente attesa. Doveva essere pronto per qualunque evenienza, perciò Alfonso si tirava dietro tutta la famiglia. A ognuno di loro era stato assegnato un compito preciso che nelle emergenze veniva svolto con velocità e precisione. Quindi il romanzo è ambientato sulle Madonie. In una Sicilia lambita dagli avvenimenti risorgimentali, il padre della protagonista è un banderuolo da generazioni. È bellissimo questo rapporto che il Mannaruolo, bellissimo e faticoso questo rapporto che il Mannaruolo, mestiere quasi adesso scomparso, ha con l'albero del frassino dal quale ricava la manna. Tant'è vero che le incisioni che vengono fatte nel tronco, ho studiato, hanno dei nomi, hanno dei nomi, credo Coggio e Pietto, hanno dei nomi che riconducono al corpo umano. Queste incisioni poi vengono considerate delle vere e proprie ferite, tant'è vero che dopo l'estrazione della manna vengono tamponate con una pezzuola imbevuta di acqua fresca. Io ho notato una certa simbologia tra il frassino e Romilda, e questa donna attraverso le sue ferite ritrova la dolcezza verso se stessa e verso comprensione verso se stessa. Ma non ci sono passaggi meno traumatici per ottenere questo? Io non lo so se esistono passaggi meno traumatici. Certo che il processo della conoscenza e della consapevolezza è un processo faticoso. Non ci sono persone, cioè la vita un po' non risparmia nessuno, anche quando all'apparenza si possa pensare che ci sono delle famiglie, no? Si guardano della gente e si pensa che sia particolarmente fortunata, o perché sta bene economicamente, o perché raggiungono delle cose di successo. Se poi vai a scavare, scopri che ogni persona porta dietro di sé i segni di un dolore forte e di qualcosa che li ha profondamente segnati. Già possiamo dirci fortunati quando nella nostra vita arriviamo. I nostri figli, le nostre famiglie, no, attraversano indenni sotto il profilo della salute, no, certi i loro passaggi, il tempo che scorre. Quindi certo, persino in medicina c'è una cosa strana, no, la memoria del dolore, il corpo ha memoria del dolore, e l'anestesia, che è uno strumento per evitare di sentir male, no? Perché cioè, certi interventi è inimmaginabile poterli fare da svegli, però si sa che nonostante tu sia addormentato, il tuo corpo sente e mantiene la memoria del dolore e della ferita inferta. Quindi no, non c'è un sistema diverso. Credo che tutti quanti noi abbiamo purtroppo dei passaggi che dobbiamo affrontare, e la cosa importante è quella di riuscire a dare valore a delle esperienze che possono, all'apparenza possono sembrare negative, fare dell'esperienza negativa un'occasione di crescita. Quindi bisogna passare attraverso il ferro e il fuoco, in sostanza. Sì. Romilda è una sposa bambina, costretta a vivere, questa è la protagonista, è costretta a vivere un rapporto con un uomo non solo più grande, ma rude e abbastanza arrogante, è cresciuto con alla frase comandare è meglio che affuttere, in pratica. E lei diventa madre ancor prima di imparare a conoscere il suo corpo e a capirlo. Io ho notato una piccola cosa, ne avevamo già parlato ai tempi dell'assaggiatrice, e qui ritrovo un altro personaggio femminile che per ritrovare la propria identità si allontana dai figli. Lo aveva fatto l'assaggiatrice, lo fa Romilda. E mi chiedo, in epoche diverse, perché i romanzi sono collocati in epoche diverse e in situazioni diverse, certo Romilda vive un ruolo che non ha scelto, ma noi donne, di fronte al ruolo dell'essere madre, siamo davvero così inermi? Cioè questo ruolo, che dovrebbe semplicemente arricchire la nostra vita, ci può fagocitare a questo punto che abbiamo bisogno di allontanarci? Perché queste due figure fanno questo in fondo, perché poi Romilda non si allontana completamente dai figli. Dunque, questo tema della maternità, soprattutto in questo libro, è piuttosto controverso e vedo che è un tema che colpisce molto perché ci ritornano in molti su questa vicenda. Io la mia esperienza personale di vita è quella di aver avuto 3 maternità cercate, cioè non mi sono mai dovuta allontanare dai miei figli per riuscire a risolvere certe cose. Però certo la maternità è un punto di non ritorno per una donna, nel bene e nel male. È un punto di grande squilibrio, perché è uno squilibrio ormonale, una tempesta ormonale totale. Io non vorrei ritornare alla mia visione, come dire, organica della vita, però in realtà poi per chi fa il medico ti trovi a fronteggiare dei problemi forti, emotivi forti durante la gravidanza. Nel puerperio c'è uno sconvolgimento dell'emotività della donna. E non c'è esperienza più totalizzante della maternità. In fondo la maternità, che se ne dica, anche se è una cosa naturale, però è un'esperienza estrema, perché c'è un riempimento del corpo, subito dopo c'è uno svuotamento piuttosto rapido, il riempimento è lento e lo svuotamento è rapido, accompagnato da cambiamenti neuro-ormonali spaventosi e da cambiamenti anche esistenziali, perché all'improvviso, da che sei padrona del tuo tempo a che non lo sei più, in fondo la maternità è un treno sul quale si sale, dal quale non si scende più, perché dal treno in corsa non si scende. L'allontanamento, sia nel caso della stagiatrice che nel caso di Romilda, diventa una necessità. Io non lo so se bisogna allontanarsi dai figli, io non ne ho avuto bisogno onestamente, però io non ho passato quello che ha passato Romilda, né ho passato quello che ha passato la stagiatrice. Quindi qualcuno lo passa e secondo me bisogna raccontarlo, che ci sono delle donne che hanno degli... Tutti noi, non delle donne, tutte le donne hanno dei sentimenti ambivalenti nei confronti dei figli. La maternità, non è vero che c'è questa cosa che il figlio ha e l'amore della tua vita. Lo è, ma lo è così forte che certe volte l'appiccicheresti anche al muro. E la cronaca poi ci dà ragione, perché poi nessuno si può meravigliare di certi fatti di cronaca che... O lanciare dei giudizi, no, verso certe donne, lì si può solo esprimere pietà, no, verso certi fatti. Quindi io non lo so, qualcuno ha bisogno di allontanarsi e qualche volta secondo me bisogna raccontarle queste cose, perché il raccontarlo un po' fa sentire meno soli, no? E un po' ti fa sentire meno mostro, perché ci sono delle donne che vengono lasciate sole con questa paura, con questa angoscia, e che poi hanno nella solitudine concepiscono delitti, concepiscono mostruosità, no? Poi, cioè, facendo un grandissimo passo indietro, lasciando la cronaca, se torniamo a Medea, insomma, no? Cioè, io credo che i greci abbiano scritto tutto, poi noi abbiamo provato a raccontarlo in maniera diversa. Ma quello è, no? Medea si mangia i figli, cioè, insomma, non l'ho inventato io continuo a modularlo e a declinarlo con le parole di oggi e con gli strumenti che ho oggi. Di sacro che aleggiava in quella stanza, un'aura quasi di chiesa. Maricchia e Alfonso stavano vivendo un momento di rara intimità e sarebbe stato un peccato interrompere quella comunione di anime. La levatrice conosceva bene il turbamento psicologico delle puerpere e le violente emozioni dei padri. Il grande mistero della vita suscita negli uomini sentimenti di ambivalenza che possono minare l'equilibrio della coppia. In quel frangente è necessario che marito e moglie rimangano soli perché possano parlarsi con sincerità e confessarsi senza remore le proprie paure. le parole che affiorano spontaneamente, se dolci, i gesti, se colmi di tenerezza, serviranno a recuperare forza e coesione. Perché il lavoro, la durezza della vita, i problemi dell'esistenza non tarderanno a ripresentarsi, provocando allontanamenti e smarrimenti. Quel breve momento di intesa perfetta basterà a tenerli insieme per gli anni a venire. Alfonso mise la picciriglia tra le braccia della madre, le guardò entrambe con orgoglio. Poi, a passi lenti, si diresse verso la dispensa. Tornò poco dopo con un barattolo di miele e una scatolina di manna. Maricchia tolse la coperta nella quale era avvolta la picciriglia, che rimase nuda. Tanuzzo, ipnotizzato dai loro movimenti, aveva dimenticato il freddo e la stanchezza. Teneva gli occhi incollati sulla sorella e su quel cordone violaceo che pendeva dal suo ombelico. Fosse quello il famoso sticchio delle femmine? Si chiese. Lollo, dammi la manna. Il cannolo bianco brillò per un attimo alla luce rossa del fuoco. Poi le dita forti di donna Maricchia lo sbriciolarono in minuscole mugghiche. La manna, come polverina magica, lasciata cadere tra le gambe di Romilda, proprio là, su quella parte delle femmine che si chiamava con quella parola secca che Tanuzzo pronunciava in solitudine per sentirsi grande. Quando nasceva una bambina, la famiglia Gelardi usava mettere la manna tra le gambe della neonata, una sorta di rito propiziatorio. Ecco, io volevo aggiungere una piccola cosa. All'esperienza di deserto emotivo di Romilda dopo la gravidanza si contrappone l'esperienza invece della maternità di Maricchia, che invece è una maternità piena, gonfia di gioia, cercata e vissuta con grande equilibrio e con grande, come dire, con grande felicità e con grande gioia nei confronti di questa vita che arrivava. Quindi non tutte reagiscono nello stesso modo. Perché siamo molto diverse l'una dall'altra, no? Cioè, non c'è la donna, ci sono le donne, no? Abbiamo sentito di questo rito propiziatorio che era in uso alla nascita di Romilda presso la famiglia Gelardi, un rito però che non è servito molto a Romilda, forse perché a volte la magia è più che altro una sorta di superstizione poetica. Io non sono molto d'accordo sul fatto che non sia servita a Romilda. A Romilda è servito, perché Romilda comunque è stata amata da questo barone di Ventimiglia. Certo, il barone di Ventimiglia, poverino, era un altro che aveva i guai suoi, perché aveva vissuto pure lui un'esistenza difficile. E quindi sì, certo, la magia è superstizione. Io nella magia ci credo, ma la magia non è certo quella dei riti magici. La magia è la magia della vita, la magia dell'improvviso, del destino che ti chiama delle cose, e degli incontri magici. La magia è quella proprio del vivere quotidianamente. Non so, questo rito della manna a me mi piaceva tanto, l'ho trovato molto carino. Non credo che esista, io me lo sono inventato, quindi non so se esiste un posto dove fanno ste cose o se nella storia sono state fatte. Penso che però a Romilda sia stata utile, perché comunque poi i percorsi non sono mai lineari nella vita, sono sempre circolari e farraginosi, per cui quello che non serve in quel momento te lo ritrovi in un altro. Bisogna avere solo la pazienza di aspettare. La Sicilia che si trova in questi tre romanzi è fatta di popolata di donne comunque forti, o comunque che in un certo momento della loro vita riescono a prendere delle decisioni, perché c'è questa forza latente che poi, o attraverso il dolore, attraverso i vari percorsi della vita, viene fuori. Pensa che personaggi letterari del genere possono in qualche modo scardinare un po' le bugie che ci sono state raccontate da tempo, cioè che la donna ha dignità solo se ha accanto un uomo a vario titolo, marito, figlio o padre. Noi adesso siamo in una società molto maschilista, ma è di un maschilismo subdolo, non si vede, latente, ci fanno credere tutt'altro. Può un romanzo diffondere il germe di una verità diversa? Io credo che la letteratura sia testimonianza e che sia compito di chi scrive in qualche modo testimoniare che esiste ben altro. Certo, poi la difficoltà è farsi leggere, per cui siccome non è facile avvicinare alla lettura, qualche volta rimane un prodotto di nicchia, se proprio lo vogliamo così. Però certamente chi scrive ha il compito di testimoniare verità. E che non è una verità di quelle che come quelle che testimoniava Cristo, deve essere una verità onesta. Lo scrittore non è un profeta, l'autore non è che né un visionario, però è in grado, deve essere onesto, deve essere soprattutto uno che racconta cose vere. Ora io penso di non essere l'unica. Certo, noi viviamo un momento molto difficile perché le verità, perché è una società questa che mistifica tutto, non è che mistifica solo la donna, mistifica qualunque cosa. Secondo me, ma anche per l'uomo c'è poca salvezza in questo periodo della nostra, in questo nostro periodo storico preciso. E la donna non ha dignità vicino a un uomo, però ha più felicità vicino a un uomo che l'accompagna in maniera dignitosa. Quindi io credo molto che ci sia un completamento fra uomo e donna. Non penso, non credo che la donna debba necessariamente avere vicino un uomo per realizzarsi, ma credo che la vicinanza di un uomo e il dialogo con l'altro, col diverso, possa in qualche modo aggiungere valore alla sua esistenza, così come credo che ogni uomo che abbia vicino una donna che lo rispetti e che abbia una relazione sana con una donna, in qualche modo abbia un valore aggiunto nella propria vita. Non credo nel forever, non credo sempre nelle cose che non si rompono, le cose qualche volta si rompono e poi si riaggiustano, magari non si riaggiustano e se ne formano delle nuove, però io credo che soprattutto in questo momento, mai come adesso, ci sia la necessità del dialogo fra uomo e donna. Cioè è veramente arrivato il momento, cioè, la nostra libertà non passa più attraverso una rivendicazione violenta e in una contrapposizione di ruoli, ma solo attraverso una collaborazione si riesce in qualche modo a uscirne vivi da queste vicende ultime. Paola. Sicuramente questo libro scritto da una donna per le donne è evidente, tutte le donne di questo romanzo sono molto forti, determinate. Però c'è una figura maschile che predomina, che si erge al di sopra di tutte, quella del mannaruolo di Alfonso. Io leggendo questo brano, che tra parentesi ho trovato questo capitolo proprio dal punto di vista spaziale al centro preciso del libro, non so se sia una casualità o ho voluto. Comunque quest'uomo, leggendo, mi è sembrato che l'autrice, lei, stesse descrivendo una persona a lei cara. È forse un'impressione, io come lettrice ho letto e ho ritrovato forse una figura a me cara invece. È scritto con passione, è scritto con amore, è descritto con amore quest'uomo. Io non ho un parente mannaruolo, però sono stata a fare manna. Ho imparato a incidere e ho passato alcuni giorni in compagnia di un mannaruolo. E devo dire che è stata un'esperienza molto importante nella mia vita, perché quest'uomo che io ho incontrato e che poi ringrazio fra l'altro nel libro stesso, e che si chiama Giulio Gelardi e che è un profeta della manna, uno studioso, non è un semplice incisore e non è uno che fa manna solo per guadagnare, anzi credo che il guadagno sia l'ultimo dei suoi pensieri. È un uomo che ha riportato la cultura della manna in Sicilia, Cioè, la manna era completamente scomparsa dalla circolazione a un certo punto, e come succede in Sicilia, come spesso succede, a un certo punto si alzò, ci fu un movimento che cercò di portare la manna nei musei, complici sempre questi famigerati finanziamenti dell'Unione Europea che tanto bene potrebbero fare e tanto male invece fanno ai nostri prodotti. Si pensava di mettere la manna in un percorso museale, di fare un museo virtuale della manna, di fare della manna una serie di fotografie e di farci immaginare che la manna fosse una fotografia stampata lì e una serie di filmini proiettati. Giulio Gelardi è tornato in Sicilia, era fuori perché suo padre sta male, suo padre faceva il mannaruolo. E comincia a fare manna e comincia a studiare, perché lui è uno studioso e non è un semplice incisore. Comincia a studiare e comincia a fare manna con grande amore, mettendosi di traverso contro questo movimento che invece voleva farne un prodotto d'archeologia. Oggi la manna è ritornata di nuovo con la sua proprio fisicità, non come fotografia. Io sono andata da lui immaginando di assaggiare una manna, comprare un cannolo di manna e magari leggermi un libricino, e mi si è aperto un mondo. E ho scoperto quest'uomo, che se ve lo andate a cercare su internet vedrete anche che ha le physique du rôle, perché è un uomo dai capelli bianchi, la barba bianca, sembra un profeta Giulio, e che mi ha raccontato delle cose meravigliose. E soprattutto mi ha raccontato e mi ha fatto sentire quanto la vicinanza alla natura possa renderci felici e quanto questo nostro allontanamento da quello che è la natura e dai ritmi della natura ci abbia fatto diventare tutti arrabbiati e nevrastenici. Forse voi a Bivona lo sentite un po' di meno, perché è sempre un piccolo centro, perché avete la pesca, perché avete ancora, no? Forse un contatto ancora c'è, e il ritmo delle stagioni ce l'avete, che è segnato dall'agricoltura, il ritmo del giorno e della notte ancora. Ma io che vivo in città, cioè ragazzi, io se inverno e estate non me ne accorgo, sto sempre chiusa o con un termosifone o con un condizionatore, l'aria è sempre la stessa, ho sempre la luce accesa di giorno e di notte, cosa vuoi che veda il ritmo del sole? Ed effettivamente noi siamo molto arrabbiati. Chi vive lontano dalla natura, l'uomo vive male. Il contatto con la natura è una cosa essenziale per vivere bene. Lui mi ha riportato al contatto con gli alberi, mi ha fatto capire molte cose. E forse io mi sono molto appassionata all'argomento, quindi... certamente io, quando ho immaginato Alfonso Gelardi, ho immaginato Giulio Gelardi, immaginavo lui. E lui è un uomo molto generoso, mi ha regalato tutta la sua saggezza, tutto il suo sapere, mi ha seguito in alcune presentazioni, abbiamo organizzato delle cose meravigliose con la manna al centro, più che con il mio libro. Continueremo, adesso andiamo in Toscana, andiamo a Capalbio al festival. Immaginatevi un festival di intellettuali, tutta l'intelligenza della nostra cultura, tutta schierata, e Giulio che verrà a spiegarci cos'è veramente la cultura, perché la cultura non è un titolo di studi, la cultura è riprenderci un po' la nostra identità, è ritornare alle nostre radici. Quindi sì, se c'è un personaggio a cui ho voluto bene, a cui voglio molto bene, sicuramente è Giulio Gelardi, e io pensavo a lui, certo. Grazie. Allora, io sono un uomo, indubbiamente, un tuo lettore, confesso l'ultimo non l'ho finito, ma sono un tuo lettore, e quello che colgo è oggettivamente: tu sei una donna che ha scelto professionalmente di dedicarsi alle donne. Sei una scrittrice che scrive di donne rivolgendosi alle donne. A un'analisi neanche troppo superficiale parrebbe così. Eppure a me sembra che tra le righe ci sia un messaggio che possa arrivare a me, uomo, e che ancora non ho ben capito, nella mia imperfezione e di uomo e di lettore non ci sono ancora arrivato. Cosa pensi che colga un uomo nel tuo scrivere, e cosa vorresti che cogliesse? Grazie Dario per questa domanda, perché in realtà un po' non che mi senta sminuita, ma comunque mi sento un po' stretta nel ruolo di autrice per le donne. Io è vero che ho dedicato la mia vita alle donne, ma perché io vengo dagli anni 70, sono una femminista, ho militato nel movimento femminista, ho svolto ho fatto sempre politica, mi sono sempre occupata di questioni femminili, l'ho fatto da cittadina, non l'ho fatto nei partiti, perché io sono quella che penso che tutti noi siamo chiamati con le nostre vite in qualche modo a testimoniare l'impegno nel sociale, l'impegno per una crescita della nostra società. Quindi è vero, io alle donne ho dedicato molto, poi ho fatto la ginecologa, quindi figuriamoci, però non sono un'autrice per le donne. Io penso di essere un'autrice trasversale, mi rivolgo agli uomini anche. Allora, ti dico che cosa, i feedback che io ho dai miei lettori, perché ne ho di maschi che mi leggono, c'è chi dice che io ce l'ho con gli uomini, non è vero, non, io non ce l'ho con gli uomini, ho molta partecipazione, molta empatia per le loro vicende, che mai come adesso si trovano stretti da tutti i punti di vista, e che reagiscono con colpi di coda violenti, no? a certe forme di, quando si sentono impauriti e quando si sentono in una situazione di difficoltà. Non ce l'ho con loro e né vorrei avercela con loro. Ce ne sono altri che mi dicono, che mi ringraziano perché apro delle segrete stanze, perché in qualche modo li faccio, do voce a delle donne con delle richieste e delle affermazioni precise, e a quel punto non possono più dire scusa non avevo capito, scusa non lo sapevo, io te l'ho spiegato. È un po' un invito al dialogo quello che io faccio nei miei libri, no? In qualche modo. C'è chi addirittura, e ecco il più bel complimento l'ho avuto quando è uscito Il Conto delle Minne, l'ho avuto da Antonio Franchini, che è questo super, che era il direttore della narrativa italiana di Mondadori e che oggi ha un incarico di grande responsabilità nel mondo dell'editoria di Segrate, il quale mi mandò una mail che io ancora conservo e che mi diceva, dice, guarda, io il tuo libro di testo, lo metterei il tuo libro come testo alle scuole. Dice, perché vorrei, perché veramente nulla c'è di più chiaro nelle difficoltà di questo dialogo, di questa relazione uomo-donna, il tuo libro lo chiarisce in maniera così chiara e fa un'educazione sentimentale che tutto sommato, se i maschi fin dalle elementari leggessero alcune cose, tutto sommato molti equivoci salterebbero. Quindi, ecco, mi piacerebbe che gli altri cogliessero questo nei miei libri, e se tu mi chiedi cosa... quello che io faccio, io non, lo faccio istintivamente, naturalmente, quando inizio a scrivere non è che ho questo obiettivo, io scrivo, io racconto delle storie, non è che mi pongo degli obiettivi a priori, l'unico obiettivo che ho è di intrattenere il lettore e di dirgli delle cose sensate senza annoiarlo, possibilmente trascinandolo dentro, regalandogli momenti di gioia, facendolo partecipare alle vicende con molta passione. Certo, poi alla fine non vorrei neanche però intrattenerlo in maniera superficiale oppure peggio ancora stordirlo con delle stupidaggini, con delle cose inutili. Per cui se poi alla fine io gli ho anche così confessato un mio segreto che può servire a lui nella sua vita, beh, a quel punto perché no, no? È quello che dico, beh, forse il gol è quello, no? Grazie. Io volevo fare un'affermazione più che una domanda, perché tutti e tre i romanzi, forse Il Conto delle Minne è un po' di più, ma tutti e tre i romanzi hanno il sapore del conto di una volta, del racconto parlato, anche questo di Romilda forse si potrebbe iniziare con C'era una volta. Pensi che sia possibile farlo adesso, in cui ascolto non ce n'è quasi più, i bambini difficilmente ascoltano, hanno la pazienza, forse non siamo più noi capaci a insegnare la pazienza dell'ascolto ai nostri figli, per poter ascoltare storie così. Guarda, l'ascolto è una delle cose più difficili da praticare in questo momento. Non ti ascolta più nessuno, non è che non ti ascoltano i bambini, è che proprio non ti ascoltano. Cioè, quando tu chiedi le cose, anche nei negozi, andiamo tutti di fretta, siamo scocciati, non ci abbiamo voglia. Forse sentiamo qualcosa, no? E soprattutto abbiamo una cosa che è molto brutta, che secondo me è una cosa che ci fa male, proprio ci fa male alla salute. Non abbiamo più un ascolto consapevole. Noi un po' viviamo come se avessimo un pilota automatico, come quando guidiamo la macchina. Pensiamo ai fatti nostri, sì, la nostra attenzione c'è sulla strada, ma non è un'attenzione consapevole, stiamo pensando ad altro. E la nostra vita quotidiana si svolge quasi in questo modo, un po' perché abbiamo sempre un rumore di sottofondo, intanto c'è una televisione sempre accesa, no? Se mangia con la televisione. Io oggi ho mangiato in una trattoria venendo all'Ercara Friddi, c'era una TV a palla che mi impediva di discutere, cioè a me non... Dico, capisco che chi è solo magari vuole essere intrattenuto, ma chi è solo, il dialogo con se stesso non lo può fare, che deve ascoltare sta cosa, no? Così, entri al supermercato e c'è la musica a palla. Il rumore in qualche modo ti porta a un senso di estraniamento dalla realtà, per cui non li ascolti gli altri. Ora, i bambini che vengono con facilità intrattenuti da altre cose, anche perché rompono di meno, diciamocelo anche con una certa franchezza, cioè il ragazzino che un tempo era tenuto fermo da questa autorità, dalla paura delle reazioni del padre, dei genitori, oggi viene tenuto fermo da una televisione, no? Nessuno di noi più è in grado di fare un intervento di autorità su un bambino, ma se lo piazzi davanti alla televisione quello non scoccia più, cioè abbiamo i DVD, cioè sono sempre bombardati. Il conto un po' si è perso. Io sono cresciuta col conto, credo di averlo detto anche 2 anni fa a Santo Stefano, cioè io sono cresciuta col conto, mio nonno mi contava il conto, mia nonna mi faceva mangiare contandomi un conto, e poi c'aveva una meravigliosa figura che era Rosa, che era la criata, no? La famosa criata, che mi contava i conti. Noi ce l'abbiamo questa tradizione orale, ce l'abbiamo più orale che scritta, no? Come cosa, è la nostra storia il conto. Secondo me non è male che cominciamo di nuovo a tirarla fuori. Certo, ci vuole un po' di pazienza, ci vuole fantasia, ci vuole anche un po' di fatica, onestamente, perché certe volte è molto più semplice pensare in automatico a quello che devi far dopo che non sederti e contare il conto. Però vedo un sacco di piccinette in braccio a genitori, suppongo, no? che qui non cada nel vuoto questa cosa che io dica, penso che qui succeda. Magari in altre realtà però non succede davvero. Sì, comunque il conturale è quello. Io lo sai che non mi definisco una scrittrice, mi definisco una contastorie, perché è quello che mi piace poi in realtà. Grazie. Se c'è qualcuno che vuole intervenire e fare qualche domanda, altrimenti io penso di passare la parola al sindaco. Grazie. Io penso che la scrittrice abbia in sé qualche cosa che ha voluto dare agli altri, cioè di un fatto di cultura. Qual è effettivamente il senso culturale di questo libro? Primo. Seconda domanda. Io ritengo, da quello che ho sentito dire, sia dalla autrice sia dagli altri, che è un libro totalmente al femminile, dico, come scrittrice e come destinazione, punto interrogativo, basta. Allora, il senso culturale io non lo so se ce l'abbia, questo lo lascio ai lettori il piacere di scoprirlo. Se c'è un senso in questo romanzo, il senso che io ho voluto dare è quello di una storia, di un racconto della nostra terra, dove ci sono tutti gli elementi della nostra terra, che sono la manna, che sono un po' la saggezza e la dolcezza nella manna e nel miele, e la passionalità, ma anche la violenza e la prepotenza nel ferro e nel fuoco, e che vengono poi rappresentati dalla violenza degli uomini e dalla dalle solfatare, c'è un lungo, non lo so se è lungo, comunque c'è una sezione dedicata allo zolfo e a tutta la storia, perché nelle solfatare si è svolta una pagina vergognosa della storia della nostra terra, quando c'erano i contratti di Carusato, che sono stati difficili, e anche dopo averli aboliti la cosa è durata a lungo, lo sfruttamento dei minori nelle solfatare. Per quanto riguarda invece l'aspetto femminile, squisitamente femminile, io non mi rivolgo solo alle donne, mi rivolgo agli uomini, ripeto, e le dirò di più: in questo romanzo c'è una protagonista che è una donna, ma ci sono tre coprotagonisti che sono tre uomini, che sono il padre, che è Alfonso il Mannaluoro, che è un uomo di grande saggezza e che è più un sacerdote, appartiene veramente al mondo della spiritualità. C'è un fratello, Garibaldino, molto simpatico, un simpatico mascalzone, che nasce come mascalzone e si redime strada facendo e che incontra la passione civile, l'impegno all'indomani dell'Unità d'Italia, l'impegno nei fasci siciliani, no? nei moti di Caltavuturo, che si impegna nella nascita del Partito Socialista. C'è una terza figura che non voglio svelare, perché se no svelo la fine del romanzo e non è mai un bene, perché c'è chi non ha letto e non gli voglio rovinare la sorpresa, che però persino lo stesso Barone Ventimiglia è un eroe negativo, ma è sempre un eroe nelle sue difficoltà e anche nelle sue cattiverie, che sono sempre giustificate dalla sua storia e che non vengono più giustificate quando a un certo punto la nostra storia e la nostra provenienza non può dirigere i nostri passi sempre. A un certo punto c'è un momento di ribellarsi e dire: no, adesso prendo io in mano le redini della mia vita. Impegno civile. Questa è Radio Libriamoci Web, la internet radio dell'Associazione Culturale Clarite, dal cuore della Sicilia, ovunque tu sia. Tra le righe e Adelaide Spallino vi danno appuntamento alla prossima puntata.